Le parole odiose e le parole odiate per Giorgio Manganelli. Parole che hanno dentro, parole che hanno dentro. Words which parole have che hanno dentro il vento. The wind. Parole che hanno dentro, parole che hanno dentro, parole Words che hanno dentro inside. La sete. Thirsty. Parole che hanno dentro, parole Words che hanno dentro, parole inside. Che hanno dentro il sangue. The blood. Parole che hanno dentro, parole che hanno Words dentro, parole che hanno dentro la neve. The snow. Parole che hanno dentro, Words parole che hanno inside. Dentro, parole che hanno dentro la morte. The death. Parole che hanno Words dentro, parole che hanno dentro, parole che hanno dentro la gioia. The happiness. Parole che hanno dentro, Words parole che inside. Hanno dentro, parole che hanno dentro la grandine. The healing. Parole che hanno dentro, Words, parole che hanno dentro, parole che hanno dentro il mare. The sea. Parole che Words, hanno dentro, parole inside. Che hanno dentro, parole che hanno dentro il segreto. The secret. Parole che hanno dentro, Words, parole che inside. Hanno dentro la bellezza. The beauty. Parole che vengono, Words which parole come. Che vengono, parole che vengono dal cielo. From the sky. Parole che vengono, Words parole che vengono, come. Parole che vengono dal nulla. From nothing. Parole che vengono, Words parole che vengono, parole che vengono da Parigi. From Paris. Parole che Words vengono, parole come. Che vengono, parole che vengono da sotto. From under. Parole che vengono, Words parole che come. Vengono, parole che vengono da lontano. From far away. Parole che Words vengono, parole come. Che vengono, parole che vengono dalla mano. From the hand. Parole che vengono, Words parole che vengono, come. Parole che vengono dalla pagina. From the page. Parole che Words vengono, parole come. Che vengono, parole che vengono dai nervi. From the nerves. Parole che vengono, Words parole che come. Vengono, parole che vengono dal caso. From the chance. Parole che vengono, Words parole che come. Vengono, parole che vengono dall'albero. From the tree. Parole, parole, Words. Parole odiose. Hatred. Parole, parole, Words. Parole, parole punite. Punished. Parole, parole, Words. Parole, parole lavate. Washed. Parole, parole, parole, parole consumate. Burned. Parole, parole, Words. Parole, parole sporche. Dirty. Parole, Words. Parole, parole, parole inquinate. Polluted. Parole, parole, parole, parole scorrette. Uncorrect. Parole, parole, Words. Parole, parole incrinate. Thorn. Parole, parole, Words. Parole, parole tradite. Betrayed. Parole, Words. Parole, parole, parole vendute. Sold. Parole che non Words, hanno, parole heard. Che non hanno, parole che non hanno patria. Home. Parole Words che non hanno, parole got. Che non hanno, parole che non hanno famiglia. Family. Parole Words che non hanno, parole che got. Non hanno, parole che non hanno tempo. Time. Parole che non Words hanno, which haven't parole got. Che non hanno, parole che non hanno origine. Origin. Parole che Words non hanno, parole che non hanno, parole che non hanno sviluppo. Development. Parole che non Words hanno, parole che got. Non hanno, parole che non hanno pazienza. Patience. Parole che Words non hanno, parole got. Che non hanno, parole che non hanno energia. Energy. Parole Words che non hanno, parole got. Che non hanno, parole che non hanno pace. Peace. Parole Words che non hanno, parole got. Che non hanno, parole che non hanno fine. And. Parole Words che non hanno, parole che got. Non hanno, parole che non hanno silenzio. Silence. Parole che sono, parole Words che sono, parole are. Che sono patria. Home. Parole che Words sono, parole che sono, are. Parole che sono famiglia. Family. Parole che sono, Words parole which che sono, are. Parole che sono tempo. Time. Parole che sono, Words parole che sono, parole are. Che sono origine. Origin. Parole che sono, parole Words che sono, parole che sono sviluppo. Development. Parole che sono, Words parole che are. Sono, parole che sono pazienza. Patience.